Ciao a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko, oggi siamo al telefono con Piero che è direttore artistico tra i fondatori e gli organizzatori di A Cielo Aperto, questa bellissima rassegna romagnola che va avanti ormai da 11 anni. Intanto ciao Piero e grazie mille di essere qui con noi. Ciao, ciao a tutti e grazie per l'invito. Allora, dicevamo che va avanti da 11 anni, questo è l'undicesimo anno di A Cielo Aperto, quali sono le novità un po' di questa edizione? Sì. Allora, questa è l'edizione appunto numero 11, il claim di questa edizione è Level 11, Level 11 in quanto ci siamo immaginati questa edizione e soprattutto ci immaginiamo il festival come una grande sfida e l'immaginiamo come un arcade game, come una nuova sfida da affrontare dove superato un livello inizia subito il livello successivo. A questo è il motivo anche delle grafiche un po' fatte a videogame. Spixellate. Esattamente. Okay, è stata fatta un'illustrazione a tema sul tema di questa edizione. Ci siamo appunto immaginati l'edizione come una grande sfida da affrontare, come ogni anno il festival, il settore della musica, ogni anno deve affrontare sfide nuove. A proposito di sfide nuove, A Cielo Aperto, come abbiamo detto, è un festival che si tiene in Romagna, tra Cesena principalmente, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Santa Sofia, insomma tutte location molto belle, tutte in Romagna, che quest'anno, poco più di un mese fa, è stato martoriato da una pesante alluvione. Io volevo chiederti, nell'organizzazione di A Cielo Aperto, questo evento terrificante, ha influito in qualche modo, ha ritardato, avete dovuto ripensare delle cose? Ha portato innanzitutto preoccupazione per insomma le persone vicino a noi e quelle che sono state più diciamo colpite da questo alluvione. A livello personale abbiamo dovuto spostare un evento, quello di White Mary, prima spostarlo, posticipandolo di una ventina di giorni e poi cambiando location perché l'evento avrebbe dovuto tenersi lungo il fiume e quello spazio dopo l'alluvione è stato dimezzato e non era più possibile effettuare lo show lì e ci siamo spostati. Per quello che riguarda invece le altre location prosegue tutto regolare e riusciremo per fortuna comunque a svolgere la manifestazione nella maniera consona, nella maniera solita. Bene, dai, tutto sommato abbastanza bene. Arriviamo allora a parlare appunto della line-up di questa undicesima edizione di A Cielo Aperto, che si è aperta, come dicevi, con i White Mary, che era la preview, sì, che doveva essere fine maggio, poi 17 giugno. Esatto. Poi esatto. Tamino il 4 luglio, che al momento, sì, della messa in onda sarà già andato, avrà già suonato. Quali sono un po' riassuntivamente le altre date che ci aspettano da qui fino a fine agosto? La prima data è quella di Giancane, la data esclusiva di Giancane. Cane con un concerto disegnato in cui ci sarà Zero Calcare, sarà una delle poche occasioni per vedere Giancane e Zero Calcare assieme perché faranno solo due date in Italia con questo tipo di spettacolo. Poi passiamo al 21 luglio che ci saranno i Baustelle, una data che è tutto esaurito già da fine marzo. Poi andiamo a Santa Sofia dove ci sarà la data dei Fat Freddy's Drop. Poi torniamo alla Rocca Malatestiana e con il live di Mezzo Sangue, e Bassi Maestro, e ci sarà una giornata diciamo dedicata all'hip hop. Poi andiamo in chiusura a Villa Torlonia per la doppietta Wilco e Verdena, che saranno 24 agosto, 27 agosto. Speriamo di concludere in bellezza la rassegna e di dare anche un po' di serenità alle persone della nostra zona che penso che ne abbiano bisogno e speriamo che i concerti possono portare serenità e un po' di spensieratezza. Ecco, lo speriamo tutti. Insomma, una line-up sia di band, di gruppi, artisti italiani, sia di artisti internazionali, come ad esempio i Fat Freddy's Drop, che sono assolutamente una chicca, a mio personale avviso, e tanti opening anche. Come avviene un po' la scelta della line-up del festival? Ma c'è sicuramente uno studio di desideri che vorremmo avverare in un'edizione piuttosto che l'altra. Si cerca comunque di andare comunque a intercettare realtà che effettivamente siano disponibili al tour, perché non è una cosa, ecco, non è una cosa scontata ogni anno. E cerchiamo comunque di dare spazio sia a volti nuovi e sia a volti più consolidati. Siamo molto soddisfatti anche del discorso degli opening, ci tenevamo molto a dare spazio a nuove realtà, non vediamo l'ora di vederli esibire sui nostri palchi, sperando che fra qualche anno possano tornare o al nostro festival o a altri festival come protagonisti, come headliner principali dell'evento. Questo è il nostro auspicio. Beh, insomma, ci sono nomi molto interessanti che poi chiaramente sui vari social di A Cielo Aperto, anche sul nostro sito Festivals Backpack, poi troverete tutti. Ci sono nomi, secondo me, molto, molto particolari. Ne faccio due: Emma Nolde, per esempio, che è già molto sulla cresta dell'onda, o Bianco, Angelica, Andrea Poggio, insomma, tanta roba. Sì. Io Piero ti ringrazio molto per la disponibilità, ti faccio un'ultima doppia domanda. Sì. Ti chiedo se hai un invito, magari un messaggio per chi ci ascolta su Radio Città Fujiko per invitarli o invitarli appunto a Cielo Aperto. Quali sono un po' i punti di forza per cui uno dovrebbe venire a Cielo Aperto? Ed infine, per chiudere, una canzone di una delle band della lineup di quest'anno per salutarci. Sì, allora, i punti di forza che sono quelli che caratterizzano la nostra rassegna, penso che sia la bellezza delle nostre location. Noi partiamo dalla bellezza di questa location per andare poi a sviluppare il nostro progetto di festival, e la forza del gruppo, i ragazzi volontari che lavorano con noi da tempo, penso che sia una delle caratteristiche che contraddistingue la nostra manifestazione, e nel tempo man mano si è andata via consolidando. E allora, sulle location siamo d'accordo anche che, okay, perché noi di Festivals Backpack siamo stati sia alla Rocca Malatestiana, Villa Torlonia, Santa Sofia, abbiamo già visto un po' di A Cielo Aperto e possiamo assicurare a chi ci ascolta che sono dei posti bellissimi, vale la pena anche solo per quello farci un pensiero. E grazie mille Piero, io ti chiedo appunto un brano tra quelli della lineup di quest'anno, tra gli artisti della lineup di A Cielo Aperto 2023, per salutarci e darci appuntamento ad A Cielo Aperto. Ciao a tutti, grazie per di nuovo per l'invito e per la piacevole chiacchierata. Beh, brano sicuramente Volevo Magia, perché credo che i festival abbiano attorno della magia, e che le persone che accorrono ai festival possono ritrovarla, perlomeno mi auguro questo. Fantastico, allora ci ascoltiamo Volevo Magia dei Verdena e ci vediamo tutti ad A Cielo Aperto. Piero, grazie mille. Grazie a voi, ciao, buona giornata.